Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Professor Chiesa, lei hai fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, non so per quale. Io ho fatto l'autostop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo, eccolo là. Tantissima, come al solito sei tu. Buongiorno alle mie conduttrici che mi accompagnano durante le mie lunghe ore in macchina. Torpedo blu. Stamattina molta nostalgia perché tra la canzoncina della macchina del capo il boxer che anche io ho avuto in gioventù. Al capone e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Taxi, taxi, il mio amore mi ricoli. Taxi, taxi, ci stiamo un po' disinnamorando dei tassisti milanesi. Speriamo che non ci stiano ascoltando questa mattina perché sono dei grandi fan di Radio 24. Però, Nicoletta, abbiamo letto le cronache dei giorni scorsi. Certo. Hai sentito quanto si sono arrabbiati per Uber? Va bene, però si sono arrabbiati, scioperi selvaggi, non hanno tollerato l'arrivo di questa concorrenza ritenuta non troppo leale. Esatto. Ma c'è un bellissimo articolo del tuo amico Alessandro De Nicola su Repubblica, sì. Un articolo che, come mi dicevi, avresti voluto scrivere magari tu. Guarda, ma tu magari. Ieri mi dicevi le stesse cose che scrive oggi. Ti ringrazio che me lo riconosci, è il presidente dell'Adam Smith Society e lui dice: non ignoriamo il disagio dei taxisti, esatto. Perché si sono comprati la licenza, ma non è ammissibile, non si può arrestare il progresso. E quindi, e questo è quello che dicevi tu ieri, al futuro non ci si può arrendere, no? Allora, di siamo certo, brave, siamo dai, brave, ci siamo fatti siamo un brave. Po' di complimenti. No, ci siamo fatti dei complimenti, ma tutto sommato sono anche le considerazioni che facevano gli ospiti che abbiamo in studio questa mattina e che presenteremo tra qualche istante. Di certo, negli ultimi tempi, quello che possiamo dire è che stanno riscuotendo un consenso crescente le iniziative locali di car sharing. A Milano, per esempio, abbiamo Enjoy, la 500 rossa, tanto carina. Car2Go, adesso sta partendo Twist, ma sono anche a Roma, in tutte le principali città italiane. In molti casi sono state proprio le amministrazioni comunali a farsene promotrici per prime. Ormai, tra virgolette, affittare un'auto e pagare secondi minuti di consumo è diventato un must, soprattutto nelle città metropolitane dove parcheggiare è impossibile, circolare nelle zone a traffico limitato è costoso, ma soprattutto dove tanti giovani si trasferiscono per motivi di lavoro e prima di acquistare un'auto ci pensano un bel po'. Tanti preferiscono spostarsi così quando non bastano i mezzi pubblici o magari la bicicletta è la scelta più gettonata. Insomma, per tanti e sempre di più l'auto di proprietà non è la prima scelta. E l'hai infatti anticipato, c'è un'altra soluzione più economica, se vogliamo, a portata di mano e di piedi di circa 14 milioni di italiani. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Bella, elegante, positiva come filosofia di vita, sobria, ecologica, democratica, la donna di cuore oggi punta sulla bici. Ci sono tante ragioni per salire in sella e pedalare, tanti vantaggi che non sono solo economici ma anche e soprattutto fisici e mentali. Secondo me, Deborah, alla bici possiamo iniziare a dare dei bollini blu. Secondo me la bici è proprio, merita il bollino blu perché fa risparmiare denari e fa guadagnare in salute. Certo. Quindi ci va bene perché è assolutamente un mezzo che ci procura benessere, ma l'importante è che quando si sale in bici si deve ricordare che è un mezzo di locomozione, quindi va rispettato assolutamente il codice della strada. Noi oggi vogliamo sapere che tipo di ciclista siete, se usate la bicicletta come mezzo di locomozione, se siete ciclisti amatoriali oppure quelli della domenica, quelli che macinano chilometri e chilometri, insomma raccontateci e raccontateci anche che idee vi sono venute o se vi vengono pedalando. 800 24 00 24. C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da sola non ce la posso farcela e basta. Beh, certo che oggi con il car sharing sarebbe molto difficile individuare il proprietario di un'auto da spostare perché ostruisce un passaggio, infastidisce qualcuno. L'auto ormai per tanti, soprattutto nelle grandi città, sta diventando una risorsa condivisa. Si trova spesso grazie a delle applicazioni sui telefoni moderni, gli smartphone, si usa, si parcheggia e già non è più nostra. Oggi nella prima parte di Cuore Denari approfondiamo il fenomeno della condivisione di passaggi in auto o della condivisione di auto o anche di biciclette. Il risparmio economico è assicurato, ma i vantaggi di queste pratiche sono anche e soprattutto altri. Intanto, Nicoletta, non abbiamo l'angoscia della multa o del parcheggio selvaggio, perché a tutti noi è capitato di lasciarla, di metterla un po' in piedi, un po' in piedi sopra un marciapiede. Non abbiamo l'angoscia del vandalo che ci graffia lo sportello, che ci ruba la bicicletta. Oggi vogliamo chiederci anche chi sono gli utenti di questi servizi, quanto costano, che differenza c'è tra, adesso dico un po' di parole in inglese, car sharing, carpooling, ride sharing e tutti questi termini che in verità stanno entrando sempre di più nella vita di noi cittadini. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Raccontateci se vi è già capitato di fare uso di uno di questi servizi, se lo fate abitualmente, se vi incuriosisce. Salutiamo il nostro ospite? Sì, va bene. I nostri ospiti, ne abbiamo due. No, vabbè. Sì, dai, no, perché mi dispiace farlo aspettare qua fino alle 11.45. Sono certa che anche lui potrà raccontarci qualcosa sul tema di oggi. Con sì, gradualità. Può darsi. Allora, io saluto Maurizio Caprino. Brava. Del Sole 24 Ore. Intanto, ciao e grazie. Ciao, buongiorno. Grazie a tutti. Maurizio. Io invece saluto allora il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno, ben ritrovati tutti. In forma smagliante, peraltro. In forma smagliante, è venuto a parlare di bici, ma chissà mai, magari interverrà anche in questa prima parte della trasmissione. Allora, Maurizio Caprino, non ti chiedo un commento su Uber e la polemica dei tassisti, perché credo che possiamo abbandonarla ai giorni scorsi, quando con gli scioperi selvaggi Milano è rimasta a piedi, ma a prescindere appunto dalla polemica, andiamo un po' alle tematiche che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori questa mattina. Abbiamo citato vari termini in inglese, car sharing, carpooling, e sai che noi cerchiamo di usarli il meno possibile, o quantomeno cerchiamo di tradurli quanto più possibile, però facciamo chiarezza e facciamo un po' uno schemino, una ABC per i nostri ascoltatori, soprattutto per quelli che abitano in città in cui tutto questo ancora non si è visto. Esatto, che magari ne ascoltano degli eco così piuttosto confusi. Allora, diciamo intanto che sono termini inglesi, perché sono tutte formule che sono nate nell'ultima quindicina d'anni e quindi purtroppo che sono nate all'estero, per cui purtroppo non c'è un corrispondente italiano. Il car sharing è la condivisione dell'auto, ma è un'auto che non è di proprietà di nessuno, o meglio è di proprietà di un operatore che la mette a disposizione e di chi fondamentalmente si abbona al suo servizio. Io poi lo dividerei in due parti. La prima è quella che citavamo anche prima, ossia quella delle amministrazioni comunali, certo. Quella che ha caratterizzato il primo, diciamo, il debutto di questa formula in Italia e che non ha sfondato, perché comporta il fatto di prendere e restituire l'auto sempre in una delle stazioni riservate, che sono pochissime nelle certo. città, e quindi c'è una certa rigidità d'uso. Invece la formula che ha sfondato, sta sfondando da andando a questa parte, ossia da quando è arrivata, è quella degli operatori privati, che consentono di prendere e lasciare l'auto dove si vuole all'interno della città. Si individua l'auto semplicemente con delle app sul telefonino, e questo è stato il grande salto tecnologico. Poi invece il carpooling è quando invece ci sono dei pendolari, è il fenomeno tipico dei pendolari, quando quindi uno mette a disposizione la propria auto, la mette a disposizione, oppure a turno, insomma, il gruppo la mette a disposizione, esatto, uno a turno oppure sempre lo stesso, e sono sempre le stesse persone, diciamo, che ogni mattina si incontrano, vanno al lavoro e, siccome hanno un orario compatibile, rientrano anche a casa la sera. Poi invece c'è il riding, cosiddetto riding, cioè quando questa condivisione dell'auto non è sistematica, nel senso che capita uno una volta tanto di dover andare in un'altra città, quindi mette su una piattaforma internet che si sono affermate, dice: signori, io vado lì, chi vuole venire con me si unisca, insomma. Certo. Questo tipicamente lo usano i ragazzi per andare a qualche concerto, no? Un autostop tra automobilisti, esattamente, oppure oppure viene usato, diciamo, da persone che viaggiano durante il weekend, magari hanno il lavoro in una città, gli affetti da un'altra parte, allora cercano in qualche modo così di ridurre i danni, soprattutto certo. economici. Ecco, in quest'ultimo caso naturalmente un servizio di questo tipo può essere presente ovunque, perché chiaramente è proprio un'iniziativa di carattere individuale. Le altre iniziative invece, tra il carattere privato e pubblico, perché chiaramente sono promosse anche da amministrazioni locali, non sono però diffuse su tutto il territorio. Prima ho citato il caso di Enjoy, perché l'ho citato solamente perché io l'ho provata con degli amici, ma in realtà se andassimo un po' a guardare nel resto d'Italia stanno arrivando anche lì. Diciamo che adesso la prossima tappa è Roma, è già partita Car2Go su Roma e anche Enjoy ci sta arrivando. Torino è l'ulteriore meta, si sta discutendo su Napoli, prima o poi ci si arriverà. No, ma adesso ci arriviamo su Napoli, perché è una cosa interessante, c'è? Sì, però diciamo che anche i grossi operatori stanno cercando di vedere se Napoli, se a Napoli c'è un'agibilità, perché ovviamente il bacino, la potenzialità c'è, però aumentano anche i rischi, diciamo. E allora abbiamo proposto ai nostri ascoltatori di raccontarci, qualora avessero utilizzato questi servizi nella propria città, che uso ne fanno, hanno fatto solamente una sperimentazione, ormai è diventato una loro pratica quotidiana appunto utilizzare il car sharing. Ce lo racconta per esempio Costantino al 349-238-6666, parla di un uso avido del car sharing e soprattutto da quando ha perso il posto di lavoro, tema che peraltro volevamo proprio affrontare nel corso della trasmissione. Aveva anche l'auto aziendale addirittura, per cui Costantino dice che Altro Consumo, che è una grande associazione dei consumatori, suggerisce che sotto ai 3.000 km conviene l'auto condivisa, non so se percorsi chiaramente nel corso di un anno. Vorrei far notare che tanti ignorano le franchigie assicurative in caso di incidente, 500 euro con Car2Go, niente con Enjoy o poco nulla con il car sharing del Comune di Roma. Ne sai qualcosa, Maurizio? Sì, allora diciamo che oggettivamente è una ottima alternativa per chi appunto è rimasto senza lavoro, ma anche per chi lavora, nel senso che molte aziende hanno messo su un proprio parco auto proprio per consentire ai propri dipendenti di spostarsi. Siccome la deducibilità fiscale del parco auto aziendale non è mai stata granché e soprattutto è stata tagliata considerevolmente negli ultimi 2 anni, probabilmente se le aziende hanno personale che fanno un uso dell'auto prettamente cittadino, conviene convertirsi al car sharing, perché il car sharing ha un costo integralmente certo. deducibile, almeno finché il fisco non se ne accorge. Poi andiamo alle franchigie assicurative. Volevo solo dire, Nicoletta, che Costantino praticamente ci ha fatto la trasmissione, perché dice anche: mi sto attrezzando per acquistare la bici inglese pieghevole per mischiare metro e bici, anche se a Roma è tutto tranne che bike friendly e i controllori della metro non sono sempre a conoscenza delle norme che regolano il trasporto di bici, perché proprio ieri ci stavamo chiedendo, Nicoletta, se appunto possono essere trasportate in metropolitana. Ti immagini a Milano adesso è possibile, ci sono degli orari precisi e chiediamo anche ai nostri ascoltatori come funziona naturalmente nelle loro città. 800 24 00 24 e oggi cercheremo di capire ad esempio se un comune cittadino che usa la macchina magari un po' in città e per fare dei piccoli tratti anche fuori città ha convenienza, magari deve cambiare la macchina, a non cambiare la macchina e affidarsi completamente al car sharing o a una di queste formule. Certo, purtroppo per le bici rubate possiamo fare poco, come segnala Fabio, che dice c'è anche un deterrente ad andare in bicicletta, che è quello appunto della facilità ad essere trafugate. L'incauto acquisto, no? Perché si vedono, no? Si sentono le persone che dicono: sai, l'ho trovata al mercato, 30 certo. euro, me la ma chissà questo è un incauto acquisto. L'ho imparato da mia figlia che si è laureata in giurisprudenza, ma vedi che e quindi diciamo anche difende anche certo, incauto acquisto si dice. Maurizio. Sì, diciamo sulle bici il problema del furto è tornato particolarmente attuale, c'è sempre stato, ma ovviamente ora che le bici valgono, hanno un valore d'uso maggiore, si pone di più e ci sono in parallelo viene proposta anche la cosiddetta marchiatura, una sorta di targatura, si mette un adesivo che è difficile poi staccare in modo tale che la bici sia sempre riconoscibile, però sono alla fine dei palliativi, perché quando la bici sparisce, sparisce. È stato documentato che vanno anche all'estero, per cui vengono anche esportate. Sì, sì. Vi presento il primo ospite telefonico di oggi, perché tra poco deve lasciarci, ma noi vogliamo sapere cosa succede a Napoli. Gianni Pignataro, che è saluto di Ciro, l'ho detta all'inglese, Pignataro, che è City Roaming, iniziativa tutta napoletana di car sharing. Buongiorno, ce la racconti subito. È peraltro una sperimentazione sotto tanti aspetti, no? Intanto i napoletani apprezzano? Ma diciamo che sì, ci sta un grande interesse da parte della città di Napoli, che è tradizionalmente molto aperta alle innovazioni, per cui c'è un grande interesse, c'è molto affetto attorno a questo progetto, anche per il nome eventualmente. Esatto, no, perché casualmente appunto proprio a Napoli l'iniziativa si chiama Ciro, che però sta proprio per City Roaming, no? Quando siete partiti? Esatto. Allora, è un progetto finanziato dal MIUR, nell'ambito delle iniziative di social innovation. Siamo partiti con attività di ricerca in quanto nell'ottobre 2012, in quanto questo progetto ha la prerogativa di concentrarsi sulla condivisione di veicoli elettrici. Ecco. E più in generale su sistemi di gestione della mobilità urbana, in quanto abbiamo associato a ad un'evoluzione dei sistemi di gestione di car sharing elettrico e van sharing elettrico, anche degli strumenti di amministrazione a chilometro zero, che hanno la peculiarità di evitare spostamenti al cittadino per motivi di servizio, quindi contribuendo ulteriormente alla riduzione del traffico e al miglioramento delle condizioni ambientali. Ma questa iniziativa, Pignataro, è ancora alla fase test, perché leggevo appunto sul vostro sito che si è partiti proprio con una circostanza sperimentale che ha riguardato 3.000 cittadini napoletani pronti a fare da tester, oppure avete già superato questa fase? No, noi siamo all'inizio della fase di sperimentazione sul campo. Abbiamo installato 3 hub, in sostanza con 18 punti di ricarica, pensiamo di arrivare a 23 colonie di ricarica nell'arco di altri 2 mesi. E abbiamo una mini flotta di 12 veicoli che già stanno praticamente a servizio di una quantità di tester che però è limitata a 100 persone circa, ma che a breve verrà ampliata fino ad arrivare a 3.000 in turnover però. Cioè, diciamo che si tratterà di 5. Non si può, con una flotta del genere non è pensabile. E quindi diciamo che siamo a 500-600 sperimentatori volontari e a bimestre. Pignataro, in bocca al lupo per tutto, ci faccia sapere come si conclude la sperimentazione. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi, grazie molto. Peraltro, Nicole, buona giornata. Auto elettrica oltretutto, quindi minore inquinamento ambientale. Mettiamo lì anche un altro bollino. Il bollino di cuore denari, dai, mettiamo un mezzo bollino a Ciro. Ciro. Che ne pensi, Maurizio, dell'iniziativa napoletana? Beh, è un'iniziativa sperimentale e difficilmente andrà oltre la sperimentazione, nel senso che abbiamo sentito ci sono questi vincoli, l'auto è elettrica, ci sono gli hub, ci sono solo 3 hub in una città molto grande, sono un po' gli stessi fattori che hanno rallentato il car sharing nel resto d'Italia. Quando invece l'auto elettrica diventerà una cosa più matura, più diffusa, più punti di ricarica, eccetera, eccetera, potremo riparlare. Quindi è giusto sperimentare, assolutamente giusto sperimentare. Però dalla sperimentazione poi alla fruibilità, come si ha la fruibilità del car sharing, quello lì che ha sfondato, ce ne corre. Non è un caso che gli operatori che hanno sfondato, nonostante abbiano costituito le proprie flotte adesso, non abbiano una sola vettura elettrica. Ma il dottor Confalonieri su tutto questo non dice nulla? Ma io sì, avrei 2 dubbi. Avendo frequentato a lungo i tassisti per il mio incidente, andavo avanti e indietro all'ospedale in taxi e parlavamo di questa problematica e volevo porre le domande all'esperto. Loro mi dicevano che tutto sommato gli dà molto più fastidio Uber piuttosto che queste iniziative che abbiamo detto. Poi Enjoy. Magari per chi non la conosce spieghiamo anche come funziona Uber. Perché comunque la diffusione in periferia di queste auto con autista, queste auto che recuperi con l'app, car sharing, è ancora molto molto ridotta, quindi tutto sommato è limitato al centro l'utilizzo di queste auto e quindi gli dà un fastidio relativo. E poi non è chiaro all'utente, faccio questa domanda, a tutt'oggi cosa succede se lui distrugge l'auto? Perché questa è la grossa paura, no? Perché poi distruggere una smart, che è l'auto più diffusa, non ci vuole veramente nulla. Mm-hmm. Fai un micro tamponamento e la macchina si apre. Allora loro dicono... Non dipende da quello, ecco, comunque... Però cosa rischia l'utente il momento in cui fa lui l'incidente? Che è una domanda fondamentale. Quanta copertura assicurativa abbiamo, in sostanza? Allora, la copertura assicurativa ovviamente è quella obbligatoria e questo non ci piove. A questa si aggiungono le coperture, una cosiddetta casco, quindi quindi per i danni che si causa per propria colpa, anche senza controparte cosiddetta, e lì dipende un po' dalle formule contrattuali. Da dire, quindi bisogna ovviamente prestare attenzione a questo, e ogni singola compagnia ha le proprie condizioni, ma soprattutto sono condizioni che possono essere mutevoli, perché anche loro stanno facendo una sorta di sperimentazione. Per esempio Car2Go ha già corretto il tiro per quanto riguarda il trasporto dei bambini, perché le smart hanno il serio problema di consentirlo soltanto con un seggiolino che è omologato dalla smart medesima, quindi alla fine trasportare i bambini sulla smart è molto problematico. Se non si inizia, comunque non si possono conoscere i limiti di questi servizi e tutte le eventuali problematiche. Nicoletta, che facciamo? È tempo di andare a sentire che cosa ci dicono i mercati. Poi c'è Fabrizio da Milano, a cui chiediamo qualche minuto di pazienza, e ritorniamo tra pochissimo. Cuore e denari. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where. E come alternativa all'auto, noi vogliamo, a Cuore Denari, proporre anche la bici, che tra l'altro potete portare anche con voi sui mezzi pubblici, ad esempio, come dicevamo, a Milano, con degli orari precisi. Tra l'altro, bicicletta più autobus o metro consentirebbe di tagliare un po' le spese per l'automobile, di risparmiare anche un po' di fatica del ciclista e di guadagnare anche un po' di tempo. La formula è abbastanza semplice, perché si pedala un po', si sale sull'autobus, poi si scende, si arriva a destinazione. E credo che per chi deve percorrere grandi distanze o per chi vive in una città con poche piste ciclabili, potrebbe essere una buona soluzione. Se l'avete provata, se vi piacerebbe farlo, se qualcuno magari di voi l'ha sperimentata con il treno, raccontateci. 800 24 00 24. E insomma, il modo di spostarsi cambia, si condividono i mezzi di trasporto, ed è anche un fenomeno degli anni della crisi, in cui si cerca di risparmiare ovunque. Abbiamo parlato prima anche di chi rimane disoccupato e appunto fa un uso quasi obbligato dei servizi di car sharing presenti almeno nelle principali città italiane. Andiamo alle osservazioni, alle considerazioni dei nostri ascoltatori. All'800 24 00 24 era lì pronto sulla rampa di lancio il nostro Fabrizio da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono un utente convinto dello sharing, sia della bicicletta che dell'auto. Sono cliente di BikeMe dalla nascita e di Car2Go dalla nascita, di Enjoy non ancora, per un problema di abbinamento della mia patente con il sistema informativo loro. Volevo evidenziare due elementi un po' critici. La bicicletta è vero che fa bene al cuore, ma si respira un'aria piuttosto inquinata. E quindi lì c'è un compromesso che bisogna seguire, cercare di fare strade alternative a quelle con il traffico. Per quanto riguarda il discorso del car sharing, un problema è di tipo amministrativo, in quanto viene messa una fattura per ogni singolo servizio. E quindi se io la uso tutti i giorni, praticamente mi trovo una fattura al giorno che mi arriva, cosa che fa arrabbiare molto il commercialista. Quindi non è possibile, diciamo, fare una sorta di abbonamento che le consenta di ottenere una fattura unica. Infatti annuisce anche Maurizio Caprino. Io mi aspettavo che arrivasse, visto che il pagamento è con carta di credito, che ci fosse l'addebito sulla carta di credito, ma che la fattura... Invece lei ha tanti micro debiti, in sostanza, Fabrizio. I micro debiti sono corretti, perché sono su carta di credito, ma le singole fatture per i singoli servizi, forse bisognerebbe fare una fattura mensile, perché sennò diventa veramente una gestione complicata. Giustamente. Fabrizio, grazie. Maurizio Caprino, poi andiamo anche alle problematiche respiratorie col dottor Confalonieri. Nicoletta, se sei d'accordo, gli facciamo, perché vedevo che voleva appunto suggerire qualcosa. Però il tema appunto delle questioni amministrative, evidentemente sono tutti aspetti da aggiustare, che col tempo forse verranno perfezionati. Sì, dovrà entrare in campo soprattutto l'Agenzia delle Entrate. perché spesso sono questioni relative proprio a norme, a interpretazioni di norme, eccetera. Quindi immagino che partirà per l'Agenzia delle Entrate il cosiddetto interpello da parte dell'operatore, poi quindi verrà prospettata una soluzione, l'Agenzia delle Entrate potrà rispondere, non rispondere, vedremo come risponderà, però per il momento è così, è ma così te, ce la teniamo. L'Agenzia delle Entrate deve pure intervenire nel car sharing. È così. Maurizio, ma tu che cosa usi? No, che io voglio fare come te, io lo copio. Perché no, ti sembra così virtuoso questo cittadino? No, perché lui Caprino. Di tutte queste cose ha studiato, mi devi ancora rispondere alla mia domandina di prima. Io personalmente vado a piedi, ma perché posso farlo, mezz'ora a piedi e... Bravo. Siamo quasi fratelli, anch'io ho scelto. Però tu a Milano hai lo stesso problema dell'ascoltatore di Fabrizio che va in bicicletta e lamenta la qualità dell'aria. Non è che si respira in modo diverso se si va in bici o a piedi con una pedalata da città. Comunque, ecco, questa è un'osservazione molto giusta, quasi intelligente, dai. Molto giusta, intelligente. Smitizzerei un po' questo problema dell'aria, nel senso che innanzitutto non cambiano i danni se uno va in bicicletta, se va a piedi, tutto sommato non cambiano tanto neanche se uno corre, e comunque i benefici legati al movimento sono molto superiori ai danni legati all'aria che respiriamo. E terzo, ricordiamoci che comunque l'aria che respiriamo, per esempio in una città come Milano, negli ultimi decenni è continuata a migliorare. Uno, perché è cambiato il tipo di riscaldamento, c'è stato un miglioramento drastico con l'eliminazione del riscaldamento a carbone. Due, perché col divieto del fumo è migliorata l'aria che respiriamo comunque nella quotidianità dei locali. Tre, perché comunque le iniziative delle isole pedonali e la progressiva diffusione di queste iniziative hanno comunque ridotto in modo significativo il numero di auto che circolano. Questo è un problema, quindi, che col progresso sta riducendosi, certo, e mi sembra giusto sottolinearlo. Ecco qua, insomma, speriamo di aver tranquillizzato Fabrizio. Linea 4, linea 6, due ospiti pronti ad intervenire. Ti lascio la scelta. dai, lo so che vuoi andare alla 4. Brava, Enrico Paglia, detto tra gli amici, ma Pagliarini, per chi lo conosce, lo apprezza. Ciao Enrico. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, sono la 4. Tu sei la 4 stamattina. Ieri tante volte, Enrico, io più volte ieri è passato in redazione dicendo: ah, vi ho sentito, belle ragazze, vanno detto, belle ragazze. Molto stupito. Ma perché? Voleva dircelo lui stamattina. Esatto. Enrico, e soprattutto perché le ascoltatrici, perché le ascoltatrici non lo dicono mai a te, e quindi, come dire, è un modo anche sto scherzando, Enrico. Allora, un grande testimonial dei come dire, servizi dei quali parliamo stamattina, grande utilizzatore di bike sharing e car sharing. Sì, io sono. Ma perché tu vuoi vedere se funzionano le applicazioni e poi parlarne a 2024? Ah, perché ne sei proprio un fruitore convinto per ragioni di altro genere. Entrambe le cose, allora mi piacciono tantissimo. Bike sharing, da quando esiste, mi sono abbonato, lo uso spesso. Beh, naturalmente, soprattutto d'estate, l'inverno è un po' più un problema. Car sharing, appena sono nati i servizi, mi sono abbonato. Devo dire che Enjoy mi piace moltissimo perché puoi fare tutto senza andare a prendere una tessera, senza compilare moduli, tutto con l'applicazione. Ti registri con l'applicazione, ti usi le automobili. Io l'ultima esperienza la settimana scorsa, perché ho utilizzato 4 volte in un giorno il car sharing di Enjoy, ma sarebbe stato anche con la stessa cosa con altri servizi, e ho speso alla fine della giornata 8,50 euro. Ho fatto 4 tratte, quindi servizio fantastico, spesa molto bassa. E io mi trovo molto bene. Ecco, allora dici un po'. Lo prendono come testimonial. No, ma a parte questo, Enrico, siccome qualche ascoltatore ce lo sta chiedendo, naturalmente chi non ne sa nulla di tutto questo, effettivamente il costo quant'è? Viene conteggiato al minuto, giusto? Sì. Al minuto è un costo abbastanza basso, perché sono 0,25, oppure per altri Car2Go sono 0,29, insomma, comunque siamo in una fascia tra 0,25 e 0,30, grosso modo. Al minuto, quindi tu utilizzi l'auto per 10 minuti, moltiplichi e ti risulta finale, insomma, 2,50 euro all'ora. Esatto, allora, diciamo che però chi ha un telefono di tipo tradizionale e che non ha le nuove tecnologie degli smartphone non è il caso. Allora, che diciamo che potresti fare la stessa cosa utilizzando il computer di casa per prenotare, però, oppure . Puoi utilizzare anche gli SMS. Diciamo, ok, però devo dire che, visto che gli smartphone si stanno diffondendo, e mi sembra anche questo un caso interessante, perché noi siamo un po' refrattari. aria, alle novità, e quindi invece in questo caso mi pare di capire che il car sharing, soprattutto a Milano, sta avendo un grande successo. Sì. Quindi non è vero che siamo poi così refrattari alle novità, quando le novità sono effettivamente interessanti per la nostra vita e hanno degli indubbi vantaggi, le accogliamo, li abbracciamo. Enrico, però hai ragione, condividiamo, però insomma parliamo di Milano e sappiamo bene che il nostro paese è una vera macchia di leopardo. Dico spesso, l'Italia non è né Milano né Roma. Eccolo qua. Roma. Allora Enrico, però... vieni a prenderci con la tua Torpedo Blu, organizzati. Grazie, ciao. grazie Enrico. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Ma chi va in bici crede di non avere le regole da rispettare, corrono sui marciapiedi, magari con la ciclabile al lato, passano strisce pedonali non con bici a mano e poi cominciano a suonare da 10 metri prima, appunto davanti al pedone. Franco Gonfalonieri. Io sottoscrivo pienamente questa cosa, che ormai chi guida la bici si sente legittimato a fare tutto e padrone della città. Questo non mi piace molto. Ormai troviamo moltissime biciclette sui marciapiedi, guidate male, scampanella, chiedono strada, spesso sui marciapiedi ci sono anche i bambini. Quindi diciamo, io sono super favorevole alla bici in città, per esempio sono super favorevole alla Bike Me, ci sono queste scene bellissime a Milano, io abito vicino a Cadorna, alla stazione, la mattina ci sono i camion che scaricano le bici in continuo e i pendolari che le prendono, vanno, camion scaricano, pendolari, c'è una coda all'inglese di pendolari che aspettano la bici per andare in ufficio. Sono scene molto edificanti, quindi sono assolutamente favorevole sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista medico all'utilizzo della bicicletta, però è vero che bisognerebbe darsi delle regole e delle discipline, non è che la bicicletta ti consente di fare tutto, ecco. Hai visto? Infatti. Allora, guarda quanti ascoltatori pronti a raccontarci la loro esperienza con la bicicletta. Abbiamo Maurizio che ci chiama da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Io chiamo dalla provincia di Milano. Però noi scappiamo sui marciapiedi perché abbiamo paura delle macchine che sono molto invadenti. E qua è il cane che si morde la coda, sì, un domino senza fine. Io sto in provincia e le poche volte che sono venuto a Milano usando il treno con la bici, poi veramente bisogna avere paura, specialmente viaggiando sulle strade principali, cioè principali, le strade più grosse di Milano, quelle ad alto scorrimento, si rischia veramente. Diciamo, quindi se si usa un po' il marciapiede per rifugiarci dagli eventuali investimenti delle automobili. Certo. E poi niente, io sono ciclista urbano, le dico che ho 6 biciclette, 3 da corsa e 3 da città, e mi sono fatto, vado al lavoro a una distanza di 10 km e mi sono fatto 2 inverni completamente, anche con la pioggia, eccetera. Vedi, andare in bici fortifica. Tra l'altro, Maurizio, che ha tutte queste bici, magari ha piacere di conoscere il segreto che ci manda un ascoltatore, del nipote, che è un ciclista, e dice che ha messo un GPS nascosto nella canna della bici, collegato al suo cellulare, e ha risolto il problema. Ma questo potrebbe fare una startup e ci fa anche qualche soldino con questa idea d'impresa, direi, no? Vabbè, Nicoletta. Allora, se è tempo, mi sembra, di parlare di bici, noi vogliamo parlare non solamente delle raccomandazioni che il dottor Confalonieri vuole fare ai ciclisti urbani, ma anche dei vantaggi della bici. Abbiamo detto che la bici è amica del nostro cuore, è un'attività aerobica che sicuramente produce dei benefici fisici, ma la bici sa essere anche terapeutica per la nostra mente. Dottor Confalonieri. Beh, indubbiamente ha grossi vantaggi a livello cardiovascolare, a livello respiratorio, a livello muscolare, perché mantiene comunque il tono muscolare, e anche a livello articolare, perché comunque ci obbliga a utilizzare le diverse articolazioni, caviglia, ginocchio e anche. Il vantaggio della bici qual è? Che noi, anche se la utilizziamo anche per pochi minuti tutti i giorni per uno spostamento in città, risponde al principio della continuità. Quindi alla fine dell'anno anche 15, 18, 20 minuti al giorno sono tante ore di attività fisica che incidono pesantemente sulle nostre condizioni di salute, anche tutto sommato a bassa velocità. Sono molto di più che il nulla di un'attesa di un mezzo o del trasporto in automobile. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi spesso ci dà quest'idea di benessere, di recupero del rapporto con la nostra corporeità, che indubbiamente migliora anche il tono dell'umore. perché penso certo. che... E di questo parleremo sicuramente nel corso della trasmissione, quindi bici per spostarsi da un luogo all'altro, per rimettersi in forma, per divertirsi, per perdere peso, per viaggiare e pensare. Parleremo anche di questo, pedalare aiuta, attiva la mente. Allora, non si condividono solo le auto, lo abbiamo detto anche all'inizio, non solamente le bici, si condividono anche i passaggi, ce lo raccontava prima Maurizio Caprino, ma dobbiamo dire che in passato anche tante trasmissioni Salvadanaio abbiamo dedicato a questo fenomeno nuovo, sempre più come dire, in crescita. Ormai conoscono in molti la storia di BlaBlaCar, la società nata in Francia ma che ha ormai una diffusione molto capillare anche in Italia, e con noi oggi Olivier Bremé, country manager di BlaBlaCar per l'Italia, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Racconto Buongiorno. Questo aneddoto. L'ho incontrato, Olivier, una settimana fa ad un evento e lui mi ha detto: devo riconoscere che sei stata una delle prime a parlare di BlaBlaCar tanti anni fa a Salvadanaio. Mi gongolo Bravo. Un pochino di questa cosa, perché è vero. Esattamente, sì. No, poi febbraio 2010. Addirittura. Sì. Ecco, da allora quanti utenti si sono registrati sulla vostra piattaforma per mettere a disposizione la propria auto e dare passaggi per raggiungere la località, per andare al lavoro, non so che cosa, appunto, in questi anni, che cosa è successo con BlaBlaCar? Ma allora, io, la mia azienda non si chiamava ancora BlaBlaCar, quindi il nome era posto in auto e avevamo poche centinaia di utenti, e nel frattempo con BlaBlaCar abbiamo 7 milioni, quindi già lì si capisce in Italia l'aumento che c'è stato, no? 7 milioni in 12 paesi europei. Ah, ecco, infatti. Quindi sì, BlaBlaCar ormai è un fenomeno europeo, no? Mm-hmm. Però l'Italia tra questi paesi è uno dei paesi che cresce di più. Quindi si parla tanto degli italiani che sono scettici di fronte alle novità, parlavamo prima di Car2Go e Enjoy che stanno crescendo, ma stessa cosa anche per BlaBlaCar. Mm. Allora, raccontiamo brevemente per chi non vi conosce, Olivier, in un minuto, cosa è possibile fare iscrivendosi alla vostra piattaforma. Intanto ci si può iscrivere sia come conducente che come ricercatore di passaggi. Come passeggero, esattamente. Quindi BlaBlaCar è sia un sito internet, blablacar.it, che è un'app per iPhone e Android, che permette agli automobilisti di mettere a disposizione i posti liberi nelle proprie auto in cambio di un contributo per le spese di viaggio. Quindi se io vado in macchina da Milano a Roma, invece di viaggiare da solo, il che mi costa tra i 100 e i 120 euro tra benzina e pedaggio, do un passaggio a tre persone, chiedo 30 euro a testa, recupero 90 euro, quindi si condividono le spese, si condividono anche un po' sì, il tempo, si chiacchiera, si fanno magari delle nuove amicizie. Quindi diciamo che è un questo bla bla. Esatto, nasce si fa un po' esatto. di bla bla, certo. Il nome nasce proprio da questo, infatti. Bene, grazie ad Olivier Bremé per averci di nuovo ribadito le caratteristiche del servizio di BlaBlaCar. Insomma, qua, come dicevi tu giustamente, Nicoletta, il futuro non ci aspetta, si può arrendere. Non ci si può porre. Maurizio, in conclusione, quali indicazioni ci vuoi dare? Perché sai che noi poi a Cuore Denari siamo molto pratici. Il dottor Confalonieri ci darà le ragioni per andare in bici e anche le raccomandazioni. Ma adesso con tutte queste offerte, alla fine uno... Sono tante offerte. A me la grande offerta mi paralizza un po'. No. Perché poi non riesco, poi dico scelgo questa? No, forse è meglio scegliere l'altro. Allora. No, bisogna partire dalle proprie esigenze. Voglio dire che se uno, per esempio, non ha il posto auto sotto casa, se uno fa un uso dell'auto che può essere quotidiano ma su tratte molto brevi, allora questo è sicuramente il caso, cioè il car sharing fa sicuramente al proprio caso. Se invece si fanno tragitti un po' più lunghi, anche solo quotidiani, però sono tragitti un po' lunghi, allora ovviamente va bene il carpooling. Se invece si hanno necessità piuttosto variegate, per cui può capitare di avere bisogno di un'auto spaziosa per magari portare degli oggetti anche, oppure per accompagnare i figli a scuola con le relative borse, magari anche per lo sport, eccetera eccetera, ahimè lì temo che continuerà a essere vincente l'auto di proprietà, anche se scomoda, perché la bici è dura quando devi iniziare a caricare borse, borsette, borsine. mattini. No, poi a me quello che più piace è l'uomo d'affari che va in bicicletta, in giacca e cravatta, ma si lega, Nicoletta, il bordo dei pantaloni, perché è veramente divertente. Però d'altronde non si possono mica sporcare. Se no vai a finire dentro raggi. Andare, te li sporchi. Oppure te li infami. Se te li arrotoli, li stropicci. Esatto. Quindi il vecchio sistema è qualcosa. La molletta. Abbiamo fatto il progresso, però c'è ancora qualcosa di antico che rimane di moda. Vedi, la molletta. Ecco. Voi cosa fate quando andate in bici per evitare che i pantaloni vadano nei raggi? Questo è il grande domandone. Il grande domandone di oggi. Cuore denari. Grazie. Allora, no, ho detto grazie, ma non so se dobbiamo andare sì, praticamente a sentire andiamo, il giornale radio. Noi salutiamo, a sentire. Salutiamo Maurizio Caprino, che ringraziamo per essere stato con noi. Lo richiameremo per tutto il mondo multe e non solo. Adesso grazie, ci chiamerò anch'io. Ma non è vero che ne prende così no, tanto. No, non ne prendo più, perché io vado solo a piedi. Brava. E sto bene, sono felice, ogni tanto salgo e scendo da un mezzo, poi lo uso anche un po' come allenamento, sto benissimo. Sai che sono multabili anche i pedoni però, eh? Ma io, tu sei, secondo te non mi comporto bene, ho la faccia di quella che non... Ma che idee strane gli vengono al GR, va che io lo sistemo. Cuore e denari. Spesso le due ruote e la strada da percorrere vengono usate per descrivere altro, i percorsi non sempre facili e lineari dell'esistenza. Vi dirò la mia. Ho sperimentato negli anni il potere terapeutico, per così dire salvifico quasi, della bicicletta. Avete un problema? Un nodo irrisolto? Qualcosa che non va e che non riuscite proprio a mettere a posto? Datevi un obiettivo. Si intende ciclistico. Una sfida. Una piccola grande impresa da perseguire, un percorso, una salita oppure una gara da portare a termine. Uscite dal garage e cominciate a pedalare. Pedalate, pedalate e metro dopo metro vedrete, chilometro dopo chilometro, la vostra meta si avvicinerà. E voi stessi, per una strana alchimia che è fisica ma soprattutto mentale e interiore, ne uscirete trasformati, rafforzati da quella piccola grande fatica, che diventerà infine lieve e ricca di soddisfazione, di una gioia intima, profonda. Avrete vinto la vostra sfida. Tratto da Tutte le salite del mondo, un libro che io e Deborah abbiamo avuto il piacere di leggere in anteprima, perché siamo un po' raccomandatine. Ce l'ho apportato brevi mano, come si suol dire. Sì, il suo autore, che è anche un nostro collega, che certamente sta proprio al piano di sopra. Esatto, infatti. Allora salutiamo e ringraziamo per essere con noi Riccardo Barlam. Buongiorno Riccardo. Che però non c'è. Ah, non c'è ancora? Non c'è, allora, non c'è ancora, anzi forse tornerà. Sono stata tratta in inganno dall'entusiasmo di sentirlo. Beh, adesso allora poi gli diciamo, vieni a trovarci di nuovo in onda. E tra l'altro, nonostante passi la maggior parte del suo tempo in redazione a seguire notizie in tempo reale, Deborah non sappiamo come faccia, ma riesce a ricavarsi tutti i giorni un qualche ora per praticare lo sport. E poi lui, il dottor Confalonieri, è un grande sportivo, perché fa le tre gran fondo di ciclismo, quindi non sono delle sfide poco impegnative. Sì, quindi lo praticherà tutti i giorni e poi lo praticherà durante il weekend, anche perché questo è quello che differenzia un po' le due grandi popolazioni, no? C'è chi fa la bici quotidiana perché la usa come mezzo di locomozione per andare a lavorare, o semplicemente perché ha un po' di tempo, la prende e va, e c'è chi invece si dedica alla bicicletta soltanto durante il weekend, ed è ancora la maggioranza. Ecco, da questo punto di vista direi, soprattutto se la scegliete per andare durante il weekend, magari cominciate con la mountain bike, che è più facile, che è più agevole, che ci porta naturalmente a pedalare con frequenze di pedalata elevata, perché questo è un altro dei segreti, soprattutto all'inizio. Non spingiamo i rapporti lunghi, scegliamo i rapporti corti, quindi tante pedalate e avanzamento ridotto per ogni pedalata. Questo è meglio da tutti i punti di vista, cardiovascolare, tecnico, articolare, muscolare. Poi man mano, quando però diventeremo... Però non vi accontentate mai, Deborah, perché ci dicono almeno fate attività fisica mezz'ora al giorno, poi ci devono sempre dire se quando camminiamo dobbiamo camminare un pochino più veloce, pedalate, dovete pedalare un pochino più veloce, non insomma più veloce. Un po' di fatica ce la fanno si fare. Si fa meno fatica perché è più veloce, ma si incontra una bassa resistenza e quindi muscolarmente si fa meno morbidi. Fatica. Molto morbidi. Poi, e la mountain bike può essere anche il segreto per affrontare le salite. Parlavate di questo libro tutte le salite del mondo, che effettivamente la salita poi è ciò che dà il grande appagamento al ciclista. Alla fine l'obiettivo di tutti è cominciare ad andare in bicicletta per poi cominciare a affrontare le diverse salite, e anche per le salite è sicuramente conveniente cominciare a farle con la mountain bike e poi passare alla bici da strada, che resta un po' la regina, ecco. Bici da strada, mountain bike, noi oggi però vorremmo parlare anche di chi magari non esce con la bici ma usa la bici in casa, la cyclette, per mantenersi in forma, dell'idrobike, dello spinning. Ci sono anche tante alternative, perché le persone oggi si vogliono mettere in forma, e magari molte di queste hanno deciso di dire: ho la bici e magari faccio un giro in bici, lo faccio con una velocità e con un'intensità diversa. Dottor Confalonieri, lei ci dirà cosa fare per mantenerci in forma con la bici. Dove andiamo, Deborah? Andiamo a Firenze da Laura, anche se insieme a Massimo da Milano entrambi aspettano da un po', ma naturalmente Massimo è un cavaliere, darà la precedenza alla nostra ascoltatrice. Laura, buongiorno. Buongiorno, sono Eccoci. Laura da Firenze, sì. E ringrazio il signor Massimo che mi ha dato la autorità. Volevo dire che io normalmente adopro la bicicletta quasi quotidianamente, soltanto chiaramente nelle ciclabili. Soltanto che appunto a Firenze le ciclabili finiscono nel niente. E quindi ci troviamo appunto a dover, per ricollegare la città da una parte all'altra, a dover passare da dei punti, dei viali dove c'è alta trascurabilità di auto, e certo, quindi anche pericolose. E quindi siamo costretti per la salute propria di dover passare spesso sui marciapiedi. Io normalmente tendo ad andare piano sui marciapiedi e anche a volte a scampanellare, perché magari mi devono sentire, che ho paura di di caricare qualcuno, come è successo a me, perché un ciclista mi ha caricato. Ma davvero? Sì, sul marciapiede. Però, e quando ti è successo che non mi ha inforcato con la bici, e naturalmente poi spavendo. Aveva ragione lui, certo. Ma ho fatto pace con i ciclisti, quindi Laura, ho talmente fatto pace che io per voi sono andata un pochino su internet insieme a Deborah e abbiamo trovato che c'è anche la pista ciclabile Fai da te. Ed è un dispositivo laser che si applica al telaio della bicicletta e che proietta sulla strada ai lati del veicolo due luci rosse, e l'effetto quindi è quello di vedere un mezzo che si muove in un'area protetta. In questo modo i ciclisti sono più visibili, possono magari scendere anche dal marciapiede, e in questo modo abituare anche gli automobilisti a fare i conti con i ciclisti, perché le cose si imparano facendole, e sperando naturalmente che tutti rispettino il codice della strada e che la sicurezza sia garantita a tutti. Grazie alla nostra amica Laura. Sì. Andiamo subito a Massimo, che ci chiama da Milano, il nostro cavaliere di oggi. Massimo, buongiorno. Che voglio vedere se si mette la pinzetta nel pantalone, tra l'altro. Adesso la domanda è d'obbligo. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, e sono contento di essere stato cavaliere in insaputa, perché ecco. Ci racconti. Ecco, io non mi metto la molletta. Ecco, ci sono anche gli anelli, Massimo, ce lo suggerisce un ascoltatore. Anelli aperti in inox oppure di plastica con catarifrangenti. E un ascoltatore mi dice che non va nella catena, finisce nella catena e non nei raggi, come ho detto io. Certo che non sappiamo proprio niente. Adesso usciranno fuori anche i cerchietti per legare i pantaloni d'oro e d'argento con i brillantini. Detto questo, Massimo? Ecco, no, io volevo partire un attimo, cioè nel senso, la filosofia della bicicletta secondo me è sensazionale, perché rende le forze, cioè moltiplica semplicemente le forze umane, ecco, insomma, senza nessun altro strumento. E questo secondo me è uno dei pochi attrezzi fisici che abbiamo che ci possa far andare più veloce. E io sono un rappresentante, sì? Sono in giro nella zona di Milano e Interland e uso la bicicletta proprio per lavoro, cioè perciò lascio la macchina in box e poi metto la mia valigia, i miei campioni sulla bicicletta e vado in giro. No, ma Massimo, rappresentante di che cosa? Per capire anche quando si presenta dai suoi clienti, un po' sudaticcio, no? Tutto tranquillo? Sì, no, tutto tranquillo. Adesso vabbè, diciamo che il nostro lavoro è diventato un po' più smart. Semplice, esatto, un po' più smart, perché comunque non si è più in giacca e cravatta, insomma ci sono diverse semplificazioni. però diciamo all'inizio io tra l'altro avevo un po' di problemi a presentarmi col caschetto da bicicletta, perché io uso il caschetto anche solo per andare a accompagnare i figli, e invece poi ho scoperto che tutto questo fa un po' simpatia, ecco, insomma ci si rende anche un po' più vicini. Perciò io, oltre a ritenerlo uno strumento utile perché mi fa arrivare prima e soprattutto parcheggio esattamente davanti al cliente, che in una città come Milano è un tempo risparmiato, certo. Insomma, è soddisfatto il nostro Massimo da Milano. Grazie Massimo, il nostro cavaliere. Dottor Confalonieri, quanti passi, o meglio, quante pedalate devo fare per stare in forma? I famosi 5.000 passi, che poi sono 8.000, in alcuni casi sono addirittura 10. A quante pedalate corrispondono? Sì, allora diciamo che i passi dovrebbero essere intorno ai 10.000, però noi viviamo camminando, quindi una buona parte di questi passi sono legati alla nostra attività quotidiana. E rispetto alla bicicletta, secondo me, ragionando sul fatto che proprio dovremmo pedalare sempre con frequenze elevate, quindi intorno ai 100, alle 100 pedalate minuto circa, se noi calcoliamo il minimo sono circa 3.000 pedalate, cioè 30 minuti a 100 pedalate al minuto. L'ideale è arrivare a 5-6.000, perché già vuol dire che siamo arrivati quasi a un'ora di attività in bicicletta, magari 2-3 giri da 30 minuti, e questo ci garantisce sicuramente un miglioramento, soprattutto se fatto con continuità, della nostra salute eccezionale. A questo proposito, visto che ci sono anche tutte queste problematiche di sicurezza, però non trascuriamo la vecchia cyclette, che adesso è un po' passata di moda, non è più tanto... Sì. È vero che la cyclette... Di solito rimane lì come appendiabito, un po' impolverato. Io ce l'ho nella mia vecchia camera da ragazza, come si suol dire, a casa da mia mamma, e ci giocano i miei nipoti adesso. È vero che la cyclette è noiosa, è monotona, può essere anche alienante, quindi tutto questo benessere legato alla bicicletta di cui abbiamo parlato forse con la cyclette manca, ma soprattutto per la popolazione anziana secondo me rimane un mezzo insostituibile per mantenere una buona efficienza cardiovascolare. Quindi io la consiglio ancora a tantissimi anziani, anche i 15-20 minuti nell'anziano che veramente soffre di ipocinesi, cioè si muove molto poco, possono essere determinanti per rallentare il decadimento e l'invecchiamento. Quindi sono una parola la spendo, magari non tanto per la donna che vuol mettersi in forma, allora cerchi qualcosa di più divertente, di più dinamico, perché facilmente la cyclette finisce in un angolo, ma soprattutto per l'anziano secondo me resta uno strumento elettivo, assolutamente. Allora io intanto, nell'attesa delle vostre telefonate, potete, anche se siete ciclisti e soprattutto se siete ciclisti, provare a superare la barriera rosa. 800 24 00 24, parleremo anche dei ciclisti amatoriali, quelli naturalmente che si allenano con cadenza regolare per arrivare a risultati, magari proprio come il nostro collega Riccardo Barlam, che appunto fa delle grandi prestazioni, ma poi vi diremo anche il suo segreto. Andiamo ad Alessandro, che ci chiama da Roma, e poi Fabrizio ad Asti, dove andrò proprio questo fine settimana. Brava, grandissimo. Non a trovare Fabrizio. Dove invece io sono stata venerdì scorso. Vedi? Ma guarda tu che passaggi del testimone. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo sottoporre il mio caso, nel senso che io normalmente faccio 4-5 km di corsa quasi ogni giorno, e poi il fine settimana mi faccio una ventina di chilometri in bicicletta con una mountain bike, di solito piste ciclabili piuttosto che insomma in giro per Roma. L'ultima volta ho esagerato un pochino, nel senso che ne ho fatti una trentina, e successivamente, diciamo, allo sforzo mi sentivo un po' strano. Io ho visto che la pressione era mediamente più alta del normale, e i battiti cardiaci pure erano fermi intorno ai 100, ed è durato per circa 2 ore questo fenomeno. E sei un po' spaventato, Alessandro, lei? Un pochino, insomma, perché non me l'aspettavo. Volevo sapere appunto se, a che cosa può essere magari dovuto, se è una cosa appunto magari da preoccuparsi piuttosto che normale, insomma, ecco. Allora, prima di preoccuparci aspettiamo, vero dottor Confalonieri? No, preoccuparsi assolutamente no. Intanto la scelta di fondo è una scelta intelligente, questa scelta di cross training di cui abbiamo parlato tante volte, quindi abbinare la corsa durante la settimana e la bicicletta al weekend è perfetto. Probabilmente e quell'incremento è stato eccessivo, sembra da poco, però passare da 20 a 30 km magari proprio in quella giornata ha comportato un sovraccarico, non si era alimentato e idratato in modo sufficiente, è stato uno stress e quindi c'è stata proprio una risposta organica allo organismo. Stress, attivazione adrenergica, aumento della pressione, aumento della frequenza cardiaca, che sono proprio le tipiche risposte quando l'adrenalina in circolo aumenta e che poi permangono anche a lungo, però non mi preoccuperei assolutamente. Dottor Confalonieri, abbinare uno sport per rendere proprio poter praticare meglio lo sport del cuore, no? Ci sono dei ciclisti che in qualche modo si allenano e per essere veramente prestanti sulle due ruote compensano e si allenano con altri tipi di attività. Quali suggerisce lei? Ma l'abbinamento ideale è ovviamente quello con il nuoto, se è possibile praticarlo, perché è uno sport aerobico che però si fa in scarico, quindi anche quelle problematiche di sovraccarico della schiena che indubbiamente sono legate a una posizione obbligata in bicicletta, soprattutto se non scegliamo la posizione corretta, che è un altro dei segreti che adesso diremo, per chi va in bici in modo continuativo. E quindi sicuramente nuoto, che oltretutto impegnando la parte superiore del corpo consente anche quell'equilibrio muscolare che è importante sia per le articolazioni che per l'estetica. Certo. Cioè non siamo il ciclista che è tutto muscoli e sviluppo sopra, che rimane un po' esile sotto, dicevo, rimane un po' esile sopra, che non è mai bellissimo da noi, vedere. Ecco, noi sposiamo ecco. L'armonia, vero? Esatto. Altro che quindi da questo punto di vista il nuoto. La corsa va altrettanto bene, perché ovvio è più semplice da praticare, c'è un impegno muscolare diverso e quindi comunque integra quello che può essere il discorso della bici. Andiamo a Fabrizio da Asti. Intanto lei, dottor Confalonieri, subito dopo ci dirà, no, come scegliere la bici ideale, perché si dice sempre hai voluto la bicicletta, pedala, però purtroppo a volte la bicicletta l'abbiamo scelta male, pedalare diventa difficile. E poi il discorso della proprio del sellino. Allora, io ve lo dico già, non parliamo di prostata oggi, biciclette, prostata, il dottor Confalonieri si è rifiutato, anche perché non ce n'è più, il problema non è lì. Ecco, Fabrizio, buongiorno. Quando si dice buongiorno. Parla chiaro. Ecco, no, allora, perché... mi rivolgo alla marchigiana di Debora. Eccola. Perché? Cagli, sai dov'è Cagli? Certamente che lo so. Ecco, vicino Cagli hanno raddoppiato hanno messo una superstrada ed è rimasta la vecchia statale, paradiso dei ciclisti. Ottimo. Però sono solo pochi chilometri, penso saranno meno di 10, no? Io ho notato che per un ciclista che voglia, per esempio, un weekend andare da Milano a Genova, rischia la vita perché deve andare in mezzo alle macchine. Invece l'idea mia, che tra l'altro mi sembra che la stanno progettando una Torino-Venezia ciclostrada, è che tutta l'Italia dovrebbe essere, dovrebbero esserci dei tratti da capoluogo a capoluogo, non so, Roma Viterbo oppure Tirreno Adriatico. Eh sì, sarebbe. È bravo Fabrizio. Vabbè, intanto Fabrizio, cerchiamo soluzioni alternative, perché ce ne sono. Dottor ecco. Confalonieri, nell'attesa cerchiamoci la bici. Sì. Così siamo pronti quando le faranno, arriverà a realizzarsi il sogno di Fabrizio, noi avremo la bici. Sì, che per inciso, il percorso di Cagli è vero che è breve, lo conosco, però è molto bello, è molto variato, quindi allenante, uno lo può ripetere anche 2 o 3 volte, pedala tanto e in sicurezza. Ecco, questo si può andare anche un po' avanti e indietro, perché esatto. Sennò non siamo mai contenti. Mai, infatti. E rispetto alla scelta della bici, la prima cosa è scegliete una bici economica. So che sembra un discorso banale, però siccome le passioni vanno e vengono, se poi la passione non è continuativa abbiamo buttato via un sacco di soldi. Benissimo. Quindi risparmiamo sul mezzo, però non sulla corretta posizione. Quindi scegliamo uno di quei negozi che vendono anche bici economiche, ma che ci mettono in posizione con una certa precisione. C'è una grande catena di distribuzione sportiva di origine francese che questo lavoro lo fa bene, tanto per cominciare. Poi dopodiché iniziamo magari dalla mountain bike per poi passare alla bici da strada, come vi ho già detto, perché è più agevole da guidare, la mountain bike è meno faticoso. Altra puntata, sicuramente assolutamente d'obbligo. Allora, dottor Confalonieri, l'aspettiamo. Grazie. La ringraziamo per essere stato con noi. Io voglio salutare Gabriele, che ci scrive dalla Svezia su Facebook, tanti ascoltatori internazionali, ed Alessandra, che sulla sua bicicletta tutti i giorni si carica persino 15 kg di frutta e verdura. Tiè, a domani.